Economia in pagina. Buonasera, questa sera parliamo di uno dei temi che ha dominato l'attualità negli ultimi mesi dopo il 23 giugno, giorno in cui si è svolto il referendum in Gran Bretagna che un po' a sorpresa ha sancito per volontà popolare l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. E ne parliamo con Gianfranco Baldini. Buonasera, professor Baldini. Buonasera. Gianfranco Baldini ha curato il libro La Gran Bretagna dopo la Brexit, edito dal Mulino, una raccolta di saggi sul tema inglese, il tema della Gran Bretagna, visto in una prospettiva non solo limitata all'evento Brexit, che comunque è il punto centrale del libro, ma guardando un po' alla storia inglese, come è nato il referendum sull'uscita della Gran Bretagna, le elezioni del 2010, le prime elezioni che hanno sancito la necessità di un governo di coalizione in Gran Bretagna, poi la scelta dei conservatori di puntare molto sul referendum anche nella campagna elettorale del 2015 quindi il referendum del 2016, un referendum che ha dato un risultato chiaro ma che ha innestato tutta una serie di problemi, tanto che la Gran Bretagna inizierà il cammino per uscire solo a fine marzo, come ha detto Theresa May, quindi dopo 9 mesi dall'effettivo referendum. Ecco, Gianfranco Baldini, molto più complicato di quanto si potesse prevedere. Sì, in effetti David Cameron aveva fatto la campagna nel 2015 alle elezioni di cui noi parliamo promettendo questo referendum e secondo alcuni avrebbe proprio vinto grazie a questa promessa. Promessa che derivava dal fatto che alla sua destra cresceva lo UK Independence Party di Nigel Farage e sperava di avere un esito positivo, cosa che poi appunto non è avvenuta, e però come ha detto lei le cose non sono affatto chiare, anche perché nel frattempo è intervenuta l'alta corte di Londra dicendo che il Parlamento si dovrà pronunciare in questo processo, quindi il referendum del 23 giugno rischia di essere appunto solo il primo step in questo lungo processo che è pieno di incertezze. Ecco, possiamo magari anticipare il fatto che il libro si conclude con un capitolo in cui si lascia intravedere la possibilità di un secondo referendum. È solo un'ipotesi di scuola oppure c'è qualche reale concretezza che si possa arrivare a fare un passo indietro? È del tutto possibile che si possa arrivare a un altro referendum. Pochi giorni dopo il primo vi è stata una raccolta, una petizione che ha raccolto più di 4 milioni di firme per avere un secondo referendum, perché molti cittadini britannici hanno votato non sapendo ovviamente quale sarebbe stato l'esito concreto nel caso avesse prevalso, come è successo il Leave, appunto, cioè l'uscita dall'Unione Europea. Quindi l'intervento del Parlamento e il negoziato che, come ha detto lei giustamente, potrà iniziare a fine marzo se il Parlamento si esprimerà in maniera favorevole, ma è del tutto presumibile che così avverrà. Appunto, apre un lungo processo al termine del quale potrà esservi un altro referendum sui termini di questo accordo, sempre che si sia arrivati a un accordo, perché, ripeto, le incertezze sono tante. Certo, le incertezze sono tante, le divisioni all'interno dello stesso governo inglese sono tante, c'è un ministro nominato per trattare gli affari appunto con l'Europa, ma poi c'è un ministro degli esteri che ha altre posizioni, c'è una stessa capo del governo, Theresa May, che non si sa bene poi quale posizione abbia, quindi le divisioni sono molto forti all'interno stessi dei conservatori, forse si avvantaggia del fatto che i laburisti sono ancora più divisi. Certo, noi ne parliamo proprio nel libro, sia con un capitolo dedicato alle spaccature dei conservatori che ho scritto col collega Bressanelli che lavora a Londra proprio, e parliamo di quanto profonda sia questa spaccatura, di quanto incerta sia la situazione. Theresa May stessa aveva fatto campagna per il Remain, seppure in maniera timida. Oggi in modo interessante, cosa che qui in Italia non si è molto commentata, in realtà si sono costruiti dei gruppi all'interno del governo stesso della May, dei comitati diciamo governativi, nei quali in realtà i sostenitori del Leave sono in minoranza, e quindi sebbene appunto vi sia un ministro, come ha detto lei, che è David Davis, che ha la competenza di trattare la Brexit, non è ben chiaro quale posizione il governo possa assumere, anche perché sa di non avere un forte margine di manovra sul tavolo europeo, perché appunto l'Unione Europea non sarà probabilmente disposta a concedere molto, soprattutto rispetto alle 4 libertà su cui si fonda tradizionalmente. Certo, prendere tutto o non prendere nulla, insomma, l'Europa non è un pranzo alla carta, si dice spesso negli ambienti europei. Ecco, io accennavo anche all'altro aspetto della politica britannica, lei dedica un capitolo scritto con Andrea Pritoni sul Labour, sì, sui laburisti. Questa figura di Corbyn è una figura molto particolare. Esatto, anche qui appunto è successo qualcosa che era assolutamente imprevedibile ancora un anno e mezzo fa, cioè appunto quando Miliband perde le elezioni, si avvia un processo per la sua successione e vince un candidato che ne so, per fare un parallelo con l'Italia, anche se un po' forzato, potremmo dire come se Maurizio Landini diventasse il leader del PD, diciamo, e quindi certo, sarebbe qualcosa di strano. E in più questo Corbyn appunto ha fatto anche lui una campagna molto timida a favore del Remain ed è appunto a dar posizione nel suo partito abbastanza lontane dal New Labour di Blair, il che significa in chiave europea che non si sa bene appunto che cosa voglia invitare a fare il proprio partito e cosa voglia invitare a fare i propri elettori rispetto a questa prospettiva poi di dare corso appunto alla Brexit. Certo, e c'è un altro punto poi che complica ancora più le cose, che non si sa mai come si possono complicare, che è la questione scozzese. Anche a questo ho dedicato un capitolo del libro, tra due elezioni e due referendum. La Scozia ha votato in maggioranza per rimanere nell'Europa e la premier scozzese ha detto esplicitamente che è disposta a tutto pur di anche a dividersi dal Regno Unito e quindi non fare più il Regno Unito pur di restare con l'Europa. È una questione che può pesare molto nei prossimi mesi, questa iscrizione scozzese, professor Baldini? Sì, assolutamente, perché appunto la premier scozzese Nicola Sturgeon ha fatto pesare questo fatto, perché occorre ricordare, come facciamo nel libro, che c'è stato un referendum sull'indipendenza 2 anni fa, che lo Scottish National Party che governa appunto a Edimburgo ha perso, e allora si pensava che il partito appunto avesse una crisi o non riuscisse più a rigiocare questa sua carta dell'indipendenza dal resto del Regno Unito. Ovviamente questa carta torna in campo nel momento in cui appunto la Scozia ha votato per oltre il 60% per rimanere nell'Unione Europea, e quindi anche qui non è chiaro quanto possa influire l'opzione scozzese sul futuro di questo processo della Brexit. Cioè, certamente loro vogliono pesare e non vogliono lasciare perdere questa prospettiva di avere appunto detto qualcosa di diverso rispetto all'Inghilterra. Ecco, tutto questo messo insieme, quello che abbiamo detto fino ad ora, ecco, se i negoziati potranno partire a marzo, quindi ad aprile, probabilmente i 2 anni necessari che si prevede appunto dal Trattato di Lisbona, necessari per mettere a punto l'eventuale uscita, rischiano di essere insufficienti date le tante variabili in gioco. È vero. Qui dobbiamo sempre ricordare che siamo appunto in terra incognita, nel senso che nessun paese ha mai chiesto di sperimentare questo percorso, cioè di uscire dall'Unione Europea, e quindi i 2 anni che sono previsti dall'articolo 50 del Trattato di Lisbona non si sa effettivamente se saranno sufficienti. Già ci sono alcune ipotesi sull'avere alcuni periodi transitori in cui la Gran Bretagna può avere degli accordi col resto dell'Unione Europea, ovviamente sulle leggi che regolano la circolazione dei beni, dei capitali, eccetera, però appunto non è affatto chiaro se 2 anni saranno abbastanza, se si dovranno applicare le regole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, se la Gran Bretagna potrà aspirare ad accordi speciali come sono in campo come con la Norvegia o con la Turchia, quindi mercato unico, unione doganale, insomma ci sono prospettive molto diverse che vanno tutte esplorate. E un altro punto importante in effetti è che tutti questi precedenti che io ho appena citato sono diversi dalla situazione attuale, perché nella Norvegia, nella Turchia, nel Canada, sul quale si è parlato molto di recente, sono mai stati membri certo, effettivi dell'Unione Europea, certo, quindi l'Europa non può effettivamente chiudere un occhio rispetto al fatto che la Gran Bretagna se ne vuole andare, quindi non può trattarla, come diceva lei, appunto con un menù alla carta. Certo, ecco, il libro è fresco di stampa, però non poteva tener conto degli ultimissimi avvenimenti, aggiungiamo allora un piccolo capitolo. L'elezione di Trump, presidente degli Stati Uniti, può cambiare in qualche modo lo scenario? Può riaprirsi un filo diretto Gran Bretagna-Stati Uniti, anche perché parlano la stessa lingua, in fondo alternativo a quello europeo? Guardi, qui è molto difficile fare previsioni, perché appunto ci sono similitudini nelle dinamiche del voto, come è stato detto, diciamo, questa sfida all'establishment, questo voto radicale di rifiuto, diciamo, che è comune a questi due risultati, cioè Brexit e vittoria di Trump. Però che poi il nuovo presidente americano riesca a, come dire, costruire con nuovi ponti la special relationship, cioè la relazione speciale che c'è sempre stata tra Stati Uniti e Gran Bretagna, è tutt'altra cosa, che dipende ovviamente da da come il nuovo presidente da gennaio in poi si affaccerà sullo scenario internazionale, quindi su questo sarei un po' prudente a fare previsioni. E allora concludiamo magari con una riflessione un po' sul ruolo dei media, anche questo è dedicato un capitolo all'interno del libro. Anche nella campagna elettorale americana tutti hanno detto che la Clinton aveva vinto i dibattiti televisivi, i confronti televisivi con Trump, poi Trump ha vinto le elezioni. Anche in Gran Bretagna sembrava che l'influenza della televisione fosse importante nel far prevalere il Remain, ma invece i media contano poco. Anche in Gran Bretagna questa influenza è stata limitata rispetto al passato? Sì, anche se occorre distinguere rispetto agli Stati Uniti, dove il 90% dei media, almeno della stampa quotidiana, era schierata con Hillary Clinton. Nel caso del referendum sulla Brexit la situazione è stata più divisa, nel senso che molti tabloidi, che sono gli stessi poi che si sono scandalizzati pochi giorni fa sull'intervento dell'alta corte che citavo prima, cioè i giudici che hanno detto che il Parlamento deve intervenire, ecco, alcuni tabloidi hanno fatto una campagna molto forte per il Leave e c'è una connessione abbastanza stretta sul fatto che molti elettori si sono fidati di questa stampa, che ha a un certo punto anche promesso cose irrealizzabili come gli oltre 300 milioni alla settimana per il servizio sanitario britannico che l'uscita dell'Unione Europea avrebbe consentito di spendere. Quindi qui l'influenza dei media è stata più incerta rispetto a quanto è avvenuto negli Stati Uniti. Indubbiamente la stampa popolare britannica ha ancora una larga diffusione, i quotidiani popolari che un po' scandalistici, che forzano molto i toni, hanno ancora una grande incidenza, al contrario di quanto avviene nella nostra Europa, da questa parte del canale della Manica. Allora, guardando un attimo in avanti per concludere, professor Bardini, vediamo di dover parlare di Brexit e di Gran Bretagna e di Unione Europea ancora a lungo, anche perché poi l'Unione Europea stessa ha qualche problema nel trattare con la Gran Bretagna. Sì, certo, anche perché appunto un collega a Londra ha fatto proprio in questi giorni per la BBC un servizio andando nelle capitali europee dove si vota nei prossimi mesi. Non dimentichiamo che a marzo si vota in Olanda, poi ci sarà la Francia, poi la Germania, quindi tutto l'anno prossimo sarà dominato da elezioni in Europa importanti, fondamentali anche per l'atteggiamento che i nuovi leader assumeranno nei confronti della Gran Bretagna, quindi il tema non ci lascerà per lungo tempo. Grazie mille, grazie professor Bardini, magari tra un paio d'anni sarò potuto fare un nuovo libro sul cammino europeo quando questa vicenda, se sarà conclusa, sarà conclusa. Abbiamo parlato con Gianfranco Bardini del libro La Gran Bretagna dopo la Brexit, edito dal Mulino, 304 pagine per 24 euro. Grazie al professor Bardini, grazie anche a Roberta Frisani in regia, Luca Cremonesi in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagine per sabato prossimo.